Anche Sonia e Olga stavano cambiando condizione sociale e ancora non lo sapevano. Migliaia di coriandoli d'oro, d'argento e di porpora un giorno avevano invaso il secondo piano della Rue de la Mare. Se ne trovavano dappertutto, nelle fessure del parquet, nelle lenzuola dei letti pieghevoli dei bambini, per le scale e perfino tra i capelli di Josette Clément. Li avevano dovuti cucire a uno, seguendo il disegno punteggiato di arabeschi di diversi colori su del tulle grigio tortora che era stato consegnato, poi ripreso a pezzi separati. Poi i pezzi separati erano tornati cuciti per le rifiniture, dopo che erano stati abilmente messi insieme quei pezzi di tulle disparati e sbiaditi prima che loro li avessero resi scintillanti, facevano un vestito come non avevano mai visto se non nei giornali illustrati che il signor Katz dava loro da sfogliare mentre tagliava i capelli di Zazà e di Maurice. Loro avevano applicato dei minuscoli automatici, cucito orli e sopraffilato gale con filo sottilissimo e il vestito se n'era riandato, finito. Come se ne riandavano finiti tutti i giorni i cappotti per bambina con i bottoni dorati, i tailleur per signora con colletti di pelliccia che non rivedevano mai più, tranne che sui giornali in periodo di pubblicità. Su pagine intere si susseguivano filiformi figure di donne e di bambine incredibilmente distinte, altere, su cui erano stati disegnati dei modelli che a volte Sonia e Olga riconoscevano e il cui prezzo le lasciava perplesse. Quando Barsky e Gromov, presentatisi da Sonia a mezzogiorno, le tesero la foto di una giovane donna molto bella, ritrovarono il loro vestito circa 3 mesi dopo che si era involato da Rue de la Mare. Non disegnato su una volgare carta da giornale, ma riprodotto sulla lussuosa carta lucida di una pagina intera. La sera prima, il principe Andrei aveva trovato nel suo taxi un programma dimenticato sul sedile posteriore da un cliente che aveva caricato al Café de la Paix e portato nel 16° distretto. Curioso del valore di qualsiasi oggetto, l'aveva sfogliato e poiché aveva conservato il ricordo dei lustrini saltellanti che poco tempo prima si erano abbattuti come pulci sulla casa, aveva avuto l'impressione di riconoscere, diceva, il vestito che aveva richiesto tanto lavoro alle due giovani donne. Più questo, aveva aggiunto Barsky guardando Olga che era appena entrata. Questo era una specie di grande animale di pelliccia che la giovane donna, bruna e spiritosa, lasciava strascicare per terra con mano noncurante. Creazioni esclusive di femmina prestige, mormorò Barsky, pensando che forse non sapevano leggere la scritta sotto la fotografia di Medi Varga nel secondo atto dei De Possédés. Barsky e Gromov regalarono alle due donne il programma e, piuttosto contenti del loro gesto umanitario, le lasciarono ai loro pensieri. Per un attimo le sfiorò la voglia di andare a vedere con i loro occhi come sfavillassero sotto le luci della ribalta il loro giovane vestito e la già veneranda fodera mordorè della loro indimenticabile cappa. Immediatamente la cacciarono, come si caccia l'idea di una folle scorribanda in paesi esotici. Non avevano più viaggiato da quando erano arrivate sotto le vetrate della Gare de l'Est. Sonia ritagliò la foto del programma e, poiché ne voleva dividere la proprietà con Olga, decisero di metterla nella cornice dei nostri. La cornice dei nostri era un grande portafotografie rettangolare profilato da 4 sottili bacchette di mogano scuro che stava sopra il caminetto nella stanza da pranzo dei Roginski e lì e Sonia Gutmann l'avevano regalato a Stepan e Olga dopo la nascita di Zazà. Era la versione moderna dell'album di famiglia. Non c'era più da sfogliare. Chinandosi leggermente sulle foto che si erano accumulate sotto il grande vetro, prima in ordine, poi in disordine, si poteva riconoscere Zazà nel passeggino, spinta da Maurice, Sonia, Olga e Stepan davanti a casa, Olga e Stepan sposi campagnoli, Elia, Zazà e Maurice ai tavolini dell'Alverniat, Zazà sulle ginocchia di Elia, Maurice e Robert il giorno della premiazione con il signor Florian, Zazà da sola con un bel collettino di pizzo, la signora Lutz e la vecchia Loventhal alla finestra della portineria, Felix e Ginette davanti alla porta e qualche sconosciuto che solo i genitori erano in grado di riconoscere. Nel corso degli anni, stringendole un po', anche a costo di sovrapporle una all'altra, Olga e Sonia avevano sempre trovato il modo di far entrare una nuova immagine nella cornice dei nostri. Si chiamava dei nostri perché era la traduzione della bella parola più slava che Yiddish, che designa la famiglia. E se i nostri si trovavano da Olga piuttosto che da Sonia, era perché lavoravano più spesso da Olga che da Sonia. Ma di Varga entrò dunque nella cerchia di famiglia. A volte la contemplavano, poi la dimenticarono e si rimisero a urlare il rasatello, a cucire occhi finti sulle pelli di coniglio e ad applicare bottoni sui polsi di maniche senza occhielli. Fino al giorno in cui scoprirono nelle grandi pezze di cotone nero dei tagli di crespo bianco. In un bigliettino che vi era appuntato, con su scritto urgentissimo sottolineato 3 volte, si chiedeva che li tagliassero secondo le misure indicate, che cucissero i pezzi secondo lo schizzo occluso e che li guarnissero in fondo al giro maniche e allo scollo con la passamaneria dorata di cui avrebbero trovato il metraggio necessario arrotolato su 2 grosse bobine di legno in fondo a ogni involto. Il bigliettino, scritto a mano, era firmato in maniera illeggibile. Fu Josette Clément a decifrare per loro il lungo messaggio. Per quanto non avessero mai fatto crociere in Grecia e neanche visitato il Museo del Louvre, lo schizzo diceva chiaramente che si richiedeva di confezionare lo stesso tipo di costume che portavano i personaggi delle illustrazioni del libro di storia antica su cui studiava Maurice. Tagliarono quindi un primo peplo e al momento di bordarlo di passamaneria smisero di lavorare. Quando in serata ripassò il triciclo al posto delle 2 pezze che veniva a prendere nella portineria dei Clément c'era una lettera. L'avevano rimuginata per tutta la giornata, con l'aiuto di Ginette Clément ne avevano tracciato le grandi linee che Felix aveva messo in bella forma. Maurice l'aveva ricopiata su un foglio a righe e infilata in una busta indirizzata al capo del personale, ditta Femina Prestige, consegna a mano. Signori, assunte come rifinitrici, per lunghi anni abbiamo lavorato per la vostra ditta alle tariffe a voi note. Il vostro ultimo invio richiede un lavoro da sarte. Abbiamo già eseguito lavori di questo genere per voi, come ben sapete. Siamo pronti a rifarlo, ma a condizioni diverse da quelle accordate dalla vostra ditta alla categoria rifinitrici. Gradite, signori, i nostri più distinti saluti. Era firmato Sonia Gutman, perfettamente leggibile, e Olga Roginski, appena leggibile. L'indomani il triciclo tornò con una lettera battuta a macchina su carta intestata a Maschere e Bergamaschi, costumi d'epoca e creazioni, tra 2 maschere di Martedì Grasso. Fu Zazà a decifrarla per loro. Signore, come avete constatato, la nostra ditta si è ingrandita. La signora Victoria Jean ha creato un nuovo settore nella nostra società. Ne ha affidato la direzione artistica al signor Alex Grandi, scenografo costumista di grande talento per il quale avete già lavorato. Vi abbiamo scelte dietro sua insistenza per eseguire l'ordinazione delle tuniche greche di cui possedete il materiale e i modelli e che sono attese con grande urgenza. Naturalmente, il vostro salario sarà calcolato su nuove basi. Solo imperiose esigenze di tempo ci hanno impedito fino ad oggi di trattare con voi l'argomento. Buon lavoro! Era firmato per la direzione illeggibile. Fierissime della loro promozione, Olga e Sonia si misero quindi allegramente al lavoro e la sera fecero vedere la lettera intestata a Stepan e a Elia, dopo aver confessato che quella era la risposta a una lettera che avevano scritto senza informarli, ma di cui conservavano la minuta. Toccò a loro essere molto fieri delle mogli, soprattutto Stepan, che chiese di rileggere la lettera intestata. Sghignazzò alle righe che riguardavano la signora Victoria Jean e capì a scoppio ritardato perché da qualche tempo incontrava tanto spesso per le scale della Rue d'Aboukir l'odiosa cognata, sempre in compagnia di un uomo alto e simpatico. Doveva essere l'Alex Grandi. Rilesse ad alta voce l'ultimo paragrafo, poi disse: «Staremo a vedere». E restituì la lettera a Sonia che la mise via con le ricevute dell'affitto. 2 giorni dopo, al posto degli anonimi campioni di triciclo, indifferenti e intercambiabili, che per tanti anni avevano deposto e poi ritirato le pezze di cotone nero, fu un bel brunetto giovane alto che si presentò a fine giornata al secondo piano di Rue de la Mare. «Buongiorno Sonia, buongiorno Olga», disse l'uomo tendendo le mani e sorridendo. «Adesso lavorerete per me. Mi chiamo Alex». Ora voi mi fate un cafferino e io vi spiego. E aveva spiegato. Si aspettava da loro lo stesso bel lavoro che avevano fatto per quel vestito con i lustrini, che, come loro disse, non ce n'erano più molte perché era un mestiere che si perdeva. Aveva calcolato quale fosse la tariffa giusta per quel lavoro. Le tuniche erano una piccola ordinazione, così tanto per lanciare la ditta. Dopo ci sarebbero state ordinazioni a valanga. Avrebbe comprato per loro un manichino e anche una vera caffetteria italiana, perché sarebbe venuto spesso. Poi aveva guardato la foto di Maddi nella cornice dei nostri e aveva detto: "È bella, vero?" Sonia e Olga non avevano fatto in tempo a chiedere se parlasse del vestito o della ragazza, perché se n'era andato, dichiarando a domani. L'indomani era tornato con un manichino, dei pasticcini, un pacchetto di caffè macinato corselè e uno strano cilindro d'alluminio con un manico di ebanite nera. Aveva messo il manichino nella stanza da pranzo di Sonia e fatto la dimostrazione della caffettiera italiana nella cucina di Olga e se n'era riandato, lasciandosi dietro quell'aroma fino al giorno prima sconosciuto alle due bevitrici di tè. E il tronco imbottito che Maurice e Zazà battezzarono la donnetta. Ed erano passati 3 giorni senza notizie. Sonia e Olga, disoccupate per la prima volta in vita loro, contemplavano il manichino, cominciavano a chiedersi se non avessero avuto a che fare con uno sbruffone e senza dirselo si misero a rimpiangere i loro fastidiosi ma puntuali involti quotidiani. Il quarto giorno, alle 9 del mattino, Alex ricomparve con le braccia cariche di rotoli di raso e di velluto di tutti i colori. Da una valigia tirò fuori della tela da imbastire, una quantità di sacchetti di perle e 3 disegni. Olga mise la caffettiera sul fuoco, mentre Sonia aiutava Alex a puntare i disegni sui fiorellini della carta da parati nella stanza da pranzo. E l'avventura cominciò. Né Stepan, né Elia, né Maurice la seguirono sul serio. In compenso, Zazà convocò tutti i giorni verso le 4 Josette e Miriam per vedere come si vestiva progressivamente la donnetta. 10 giorni dopo, i 3 sontuosi abiti da cortigiane, compagne d'orgia di Lorenzo de' Medici, lasciavano Rue de la Mare tra le braccia di Alex. Prima di portarli via, aveva scritto accuratamente con l'inchiostro di china, maschere bergamaschi, Sonia e Olga 39-1932. Su 3 pezzettini di gros grain, come le madri che cifrano il corredo del figlio che mandano in collegio per la prima volta. Presto, se le cose vanno bene, avremo delle vere etichette che verranno tessute apposta per noi. Vedrete, ragazze, aveva detto Alex mentre scendeva le scale. Siccome le cose andavano bene, una seconda donnetta fu messa questa volta nella stanza da pranzo dei Roginski e arrivarono anche le etichette. Poi, una sera, tornando dal liceo, fu una donnetta vera che Maurice trovò nella stanza da pranzo. Si stava spogliando davanti a Olga, sua madre, e ad Alex. Allora, dal momento che quando rincasavano lui e Zazà non trovavano più un angolo di tavolo su cui fare i compiti, come avevano sempre trovato fin dai primi giorni di scuola, presero l'abitudine di andare a studiare nella portineria dei Clément, Maurice con Robert, Zazà con Josette, sotto la placida sorveglianza di Ginette, che ne approfittava per imparare di nuovo con le bambine quello che aveva dimenticato, o per imparare quello che non aveva mai saputo con i ragazzi, ora in quarta A, al liceo Voltaire. Oh mia incomparabile, mia abominevole, insostituibile strega adorata, pensava Janek dentro di sé e in Yiddish, mentre Nicole guidava la mano della vecchia signora alla quale aveva teso una paletta da dolce finemente lavorata. Spetta alla nostra madrina l'onore di soffiare sulla nostra prima candela e di distribuirci le porzioni del nostro dolce, aveva detto al momento in cui il cameriere della Cascade del Bois de Boulogne aveva posato sul tavolo un enorme dolce al cioccolato. La glassa era decorata con 2 maschere di pasta di mandorle, una sorridente e l'altra triste, e una crema di vaniglia e di fragole evocava le figurine danzanti degli abitanti di Bergamo sotto un 29 luglio 1933 di marzapane. Al centro ardeva un cero. Alla russa, aveva annunciato Nicole. La signora Leblanc soffiò e i 9 commensali applaudirono. Era, per così dire, il calare del sipario su una commedia provata per mesi, testé rappresentata e il cui successo pareva ormai assicurato. Autrice e felice regista, Nicole Judith Victoria Anna sorrideva al marito e al resto della compagnia. Sul suo viso era impressa l'indulgente riconoscenza delle creatrici, che sulle finalità della loro opera la sanno molto più lunga degli attori, i quali si limitano a recitare bene i personaggi loro affidati. Nell'opera di Nicole c'era qualcosa di Marivaux, di Feydeau e di Alexandre Dumas padre, e se Janek, invece di fantasticare in Yiddish, avesse pensato in francese, avrebbe anche potuto sospirare: «E brava Margherita!». Invitati a commemorare la prima riunione plenaria della fondazione legale della ditta Maschere Bergamaschi, si trovavano riuniti intorno alla tavola il suo presidente onorario Augustin Leblanc e consorte, il suo amministratore Roger Ziegler e consorte, la sua vice direttrice Medi Varga, il suo direttore artistico Alexander Grandi, il suo consigliere giuridico avvocato Dubatton Ripoix e consorte, e la sua direttrice e creatrice Victoria Jean e consorte. Le motivazioni drammatiche che avevano reso possibile quella tranquilla cena di cervelli, inimmaginabile pochi anni prima, erano peraltro semplicissime. Esse si basavano sul classico sistema dell'equivoco. Intorno alla tavola, eccezion fatta per Nicole, Janek e Maddy, ciascuno si sbagliava su tutti gli altri. Augustin Leblanc, per esempio, che trovava geniale il coraggioso modo escogitato dalla sua giovane amante per trarre in inganno tutti quanti, ostentando un'equivoca intimità con il giovane Alexandre Grandi, del quale lui, Augustin, aveva tutti i motivi di pensare che fosse in realtà l'amante di Nicole, non era forse stata lei a presentarglielo? Alexander Grandi, al quale Maddy, per tenerselo più a lungo degli altri, non aveva mai rivelato che ci fosse Tintin nella sua vita e che si chiedeva se Augustin non fosse il vecchio amante molto ricco di Nicole. Lillian Ziegler si chiedeva invece se Maddy non fosse l'amante di Janek, il che avrebbe spiegato il programma teatrale che le era capitato sotto gli occhi con quella pubblicità di cui né lei né Roger erano stati informati. L'avvocato Dubatton Ripoix, il nuovo venuto portato da Roger Ziegler, era incline a credere in una relazione tra Lillian Ziegler e Janek Roginski, tanto li trovava silenziosi. Quanto alla vecchia signora Leblanc, tirata fuori dai Troyes, da Troyes per la serata, su espressa richiesta di Nicole, trovava tutti quei parigini molto carini, allegri, soprattutto Maddy e Alex, che chiamava la nostra giovane coppia. E, per tutta la cena, aveva seguitato a far notare a Augustin come stessero bene insieme. Al momento degli addii, sulla scalinata del ristorante, la signora Leblanc, resa euforica da 2 coppe di champagne, dette via libera al suo ardore lanciando un cordiale invito generale. «Venite tutti a trovarmi a Troyes», disse. «I nidi d'amore non mancano nella grande casa dove il mio vecchio orso geloso mi tiene sequestrata». Augustin Leblanc dovette spingerla nell'auto di Ziegler. Maddy propose a Grandi di riaccompagnarlo con la sua piccola Talbot. I Dubatton Ripoix avevano il loro autista che già stava aprendo lo sportello della Panhard a Nicole. Quando questa dichiarò con una disinvoltura simpatica, ancorché un tantino forzata: «Noi torniamo a piedi, ci farà dimagrire». Al che Maddy rise e Augustin Leblanc si voltò, mentre si accingeva a sedersi accanto al genero che aveva già avviato il motore. Janek e Nicole attraversarono l'Avenue des Acacias e si inoltrarono in un vialetto molto buio. Non parlavano. Dolcemente Nicole prese la mano di Janek, lui la strinse, smise di camminare, si guardò un attimo intorno, poi trascinò Nicole nel folto del bosco, dove fecero brutalmente e teneramente l'amore, come si sapeva fare nel suo paese, in campagna, durante l'estate. «Merda, mi dimenticavo la povera Joelle», disse Nicole, vedendo la luce ancora accesa un'ora così tarda nel salotto dei Les Gentils al secondo piano. Joelle Les Gentils era progressivamente scivolata nella categoria fino allora riservata alla povera Anna. non perché non fosse più viva, ma semplicemente per il fatto che non contava più, o meglio, contava solo per il ruolo di economa addetta alle spese alimentari che Nicole aveva riservato a causa delle sue personali e nuove occupazioni artistiche. La povera Joelle aveva scambiato per dimostrazioni d'amicizia e di segnalata fiducia quello che Nicole le aveva abbandonato tanto più volentieri in quanto le razzie al mercato di Neuilly non la divertivano assolutamente più. Era quindi lei sola, seguita dalle due sorelle Beau, a comprare in gran quantità, a seconda dell'ispirazione, l'occorrente per cucinare nelle famiglie del secondo e del terzo piano. Come da altre parti, non era quindi raro che si mangiasse dai Roginski, Jean, quello che si mangiava lo stesso giorno dai Les Gentils. In cambio, senza arrivare al punto di dire che Naveau, come ad Armelle, Nicole la sapeva adulare con frasi come «Tesoro, grazie, con tutto quello che ho da fare non so come me la caverei se non avessi lei», che le buttava lì incrociandola per le scale nel momento in cui Joël stava tornando dal mercato, momento che corrispondeva appunto a quello in cui Nicole usciva per andare in viale Chateaubriand. Era come dire che non si vedevano e non si parlavano praticamente più, condizione ideale perché Joël e Gentil rimanesse all'oscuro dei sentimenti di totale indifferenza che adesso Nicole nutriva per lei. Ciò nonostante, quella mattina si erano viste e le due finestre illuminate come fari sul mare bretone nella notte di Neuilly lo avevano ricordato a Nicole, mentre Yannick le stava togliendo i fuscelli rimasti impigliati nelle sue trecce un po' disfatte. Quella mattina la povera Joelle era andata a suonare prestissimo dalla vicina e con una familiarità da collegiale si era piazzata ai piedi del letto di Nicole, aveva sgranocchiato i suoi crostini e diviso il suo tè, aveva una richiesta da formulare. Lei ricorda di sicuro il procuratore Hariot, quel mio cugino, beh, insomma, quel cugino di mia madre di cui le ho parlato tanto spesso. Naturalmente, aveva risposto Nicola, a cui quel nome non diceva un bel niente e pensava solo alla cena della sera ordinata alla Cascade. Bene, allora andrò per le spicce. Quello che sto per chiederle è un tantino sfacciato. Stiamo aspettando mio cugino Michel, beh, il mio bis cugino Michel, il figlio del procuratore, di passaggio a Parigi dopo un lungo viaggio di studio in Germania. Studia legge in Germania? Chiese Nicole. No, un viaggio di studio in centri di allevamento, allevamento di volpi. Adora gli animali. Volpi tedesche? Fece Nicole con un sorriso, pensando al povero Samuel Zetkin. Ora mi chiede troppo, sa, le pellicce, io. Comunque, tedesche o meno, tutto quello che so è che sono argentate. Mio cugino Michel è un ragazzo molto timido, è vissuto sempre nel Morbihan, in Bretagna, e gli ci è voluto un bel coraggio per intraprendere un periplo del genere. Mi chiedevo se suo marito non gli potesse dare qualche consiglio, suggerirgli degli sbocchi, visto che ora si lancerà in un allevamento suo, nella bella tenuta che possiede a Lochanguidel, un posto meraviglioso, ettari di landa di fronte all'oceano. Soffrirà, poverino, se gli piacciono gli animali, disse Nicole che cominciava a divertirsi. Tutti quei volpacchiotti argentati allivati al poppatoio per diventare colli, manicotti, polsi, che tristezza! Ah, beh, io suppongo, beh, che non li ammazzerà di persona, rispose Joël. Ma ancora una volta non è una cosa che mi riguardi. Io cerco soprattutto di far piacere a suo padre, il procuratore, che è un uomo di gran cuore e si preoccupa per l'avvenire del figliuolo. Allora, vuol venire stasera a cena, così alla buona con suo marito? Parleranno di faccende di bottega. Oh, a cena stasera è impossibile, abbiamo già un impegno, ma passeremo dopo a bere qualcosa, aveva promesso Nicola, alla quale la parola bottega era piaciuta molto moderatamente. L'aveva promesso e poi l'aveva dimenticato. Se ne ricordava adesso, era chiaro che al secondo piano stavano vegliando, sperando ancora che arrivassero. Resteremo solo 5 minuti, disse a Yannick, che non aveva la benché minima voglia di finire la serata in quel modo. Appena entrati nel salotto dei Les Gentils, Nicole si rese conto a che disastro fossero sfuggiti lei e Yannick con quel loro impegno per cena. Il figlio del procuratore, sprofondato in una poltrona, non si alzò, tese a tutti e due una mano molle e umidiccia che lasciò ricadere sui ginocchi. Poi non li guardò più. Teneva la testa piegata in avanti, una lunga ciocca nera sfuggita da una fronte già stempiata gli attraversava l'occhio destro e andava a confondersi con i radi baffi che gli coprivano il labbro superiore, sotto il quale c'era una specie di vuoto che si perdeva in un solino inamidato e grigiastro. Contrariamente all'impressione che spesso si ha quando si compare tardivamente in una cerchia familiare di essere degli intrusi in una conversazione avviata da tempo, Nicole e Jean provarono la strana sensazione di non interrompere assolutamente nulla, se non il silenzio che evidentemente pesava già da ore sull'infelice trio costituito dai Le Gentil e dal loro cugino Michel, arenatosi nella poltrona Luigi XV. Con il suo gran corpo di mollusco e la testa da squalo baffuto, faceva pensare a quei mostri marini che la grande marea depone a volte sulle spiagge, dove marciscono in attesa che il mare riprenda quello che resta della loro carcassa per deporlo altrove. Oh, siamo stati trattenuti, scusateci per il ritardo, disse Nicole. Non ci speravamo più, confessò Joël, porgendo loro due bicchierini di una vodka fantasia che Édouard Le Gentil aveva stappato apposta per loro. Nostro cugino è ancora molto stanco del viaggio, riprese Édouard Le Gentil. Faticosa la Germania, non è vero, Michel? Michel Henriot non sentiva e guardava fisso il tappeto. E che cosa ha visto in Germania? Si informò Janek, che voleva concludere rapidamente e affrontare l'argomento per il quale in teoria era stato convocato. Michel Henriot continuava a non sentire. Il signor Jean ti chiede che cosa hai fatto e visto in Germania, Michel? Disse molto forte Joël, la cui voce leggermente di testa rivelava tutti gli sgomenti, soprattutto quello di essere stata tanto debole da invitare quel cugino e tanto sciocca da convocare degli estranei a contemplare il cretino della famiglia. Allora, di un po' che cosa hai visto in Germania. Lo squalo alzò la testa. Aveva degli occhi molto azzurri, molto globulosi e molto innocenti. Ho visto delle volpi, dei cani lupo e degli ebrei, disse con un mite, triste sorriso. Scioccone, stai dicendo delle stupidaggini? Lo rimproverò Joël. Non è vero, ho visto degli ebrei che facevano i cani, erano buffi, ripeté Michel Henriot. Édouard Le Gentil abbozzò un gesto di impotenza verso Nicole e Janek, che bevvero d'un fiato il loro bicchiere di cattiva vodka, mormorarono: si è fatto tardi. E seguirono fino alla porta d'ingresso la povera Joël sull'orlo delle lacrime. Non l'avevo più visto da 5 anni, sussurrò. La sua morbosa timidezza non è migliorata, è terribile. Comunque, grazie di essere venuti. Sicuri che stesse ascoltando dietro la porta, salirono in silenzio. Io dei cugini così li nasconderei, esclamò Nicole, versando per Janek e per sé due bicchieri di buona, vera vodka. Un tizio che va a perfezionare la sua educazione in Germania in questo momento? Avresti dovuto diffidare, disse Janek. O è un mascalzone o è un pazzo. Perché? Non vorrai fare di ogni erba un fascio, le volpi argentate e la politica? Io dico e sostengo che uno che sceglie di andare a passare qualche mese in Germania l'anno che Hitler ha vinto le elezioni non può essere che un mascalzone. O un pazzo, o tutti e due insieme. Oppure un mascalzone che fa il pazzo, perché quello che ha visto per la strada non se l'ha inventato. Hitler ha gente con gli stivali che frusta gli ebrei come cani. Non era la prima volta che Janek parlava di Hitler davanti a Nicole. Finiva sempre male. Serba questo genere di conversazione per tuo fratello, disse rimpiangendo subito di averlo detto. Non ho nessuna conversazione con mio fratello e tu lo sai benissimo, bofonchiò Janek con tono amaro e si diresse verso il bagno. Peccato, pensava Nicole, eppure era stata una gran bella serata e, sentendosi in colpa, se la prese soprattutto con Joël e Gentil. Andarono a letto in silenzio. Nel buio Nicole si avvicinò a Janek. Non hai mai capito niente, gli disse all'orecchio. Non è che io li detesti, ma gli ebrei, poveri, mi fanno paura. Allora dovevi prenderti un Rothschild nel letto. Bisbigliò Janek in Yiddish così vicino alla sua bocca che la sua piccola frase cantante finì nel bacio che lei gli stava già dando. Questo proprio no, sentì confusamente mentre scivolava su di lei. e fecero l'amore come sapevano farlo, sottilmente e sapientemente da tanti inverni, primavere, autunni ed estati. L'indomani mattina, Armel Beau aveva gli occhi rossi e un graffio sul naso. Rifiutò di dire perché avesse pianto, sostenne che il gatto del quinto piano andava spesso in giro di notte e se ne tornò in cucina. Nicole ignorava che ci fosse un gatto al quinto piano, come del resto ignorava tutto quello che viveva lassù. C'era salita una volta, molto tempo prima, il giorno in cui, in compagnia di Joël, aveva sistemato le due sorelle Beau nella cameretta comune. Si ricordava che prima di riprendere la scala di servizio aveva girato il rubinetto di rame di una fontanella di zinco che si trovava sul pianerottolo. Aveva constatato, soddisfatta, che l'acqua arrivava bene e aveva localizzato dal rumore un gabinetto che si immaginava alla turca e che doveva essere in fondo al lungo corridoio. Contò sulle dita, dovevano essere passati 7 o 8 anni. C'erano voluti gli occhi arrossati di Armel e quel graffio sospetto perché di colpo le tornasse in mente la macabra battuta che Maddy aveva pronunciato sbellicandosi dal ridere qualche settimana prima. Erano per le scale. Passando davanti alla porta dei Le Gentils avevano sentito la voce di Joël che sgridava severamente una gildesa singhiozzante. Si erano fermate un attimo prima di ricominciare a salire. Al terzo scalino Maddy si era vigorosamente pulita i piedi sulla passatoia e aveva dichiarato: «La prossima volta in queste scale si camminerà su cervello di padrona se tu e la tua vicina continuerete a far vivere le vostre scioccherelle come le sorelle Papin». Il 2 febbraio 1933, assassinando selvaggiamente le loro due padrone alle mani, le due sorelle Papin avevano conquistato una celebrità che superava di gran lunga quella che il mese prima Adolf Hitler si era legalmente concesso assumendo il potere a Berlino. Da quella tragica sera del 2 febbraio, tutto quello che la Francia contava come veri o falsi criminologi, sociologi, psicologi, erotologi, più qualche poeta surrealista, aveva qualcosa di nuovo da dire sul caso di Lea e Christine Papin, le quali, dopo aver colpito a morte le signore Lancelin, avevano poi deciso di disseminare per le scale della loro bella villetta gli occhi e il cervello, lo scalpo e i denti delle loro padrone, alle quali non avevano osato confessare che le valvole erano saltate perché Lea Papin aveva infilato male nella spina il nuovo ferro da stiro elettrico. C'era effettivamente di che porsi qualche interrogativo e la gente non perdeva l'occasione, tanto più che la natura dei rapporti tra le due giovani sorelle alimentava nei curiosi fantasie estremamente redditizie per coloro che le commentavano su una certa stampa. In casa delle signore Lancelin, infatti, le sorelle Papin, da 7 anni che erano al loro servizio, avevano sempre dormito nella stessa camera e nello stesso letto. «È stato proprio un gatto a graffiarla, Armel?» chiese Nicole entrando in cucina. «Sì, signora», rispose Armel con la testa china sull'acquaio. «Allora deve aver graffiato anche Gildes, se si è infilato nella vostra camera». «Beh, no, perché Gildes, lei...» La frase si interruppe di botto. Armel aveva parlato troppo o non abbastanza. Alzò impercettibilmente le spalle come per sottolineare un'evidenza. «Gildes? Lei? Che cosa?» fece dolcemente Nicole. Ci fu un lungo silenzio. Armel aveva le mani nel catino di smalto blu dove stavano a bagno le due tazze e i due piattini della colazione dei padroni. Senza asciugarle si premette le palme sugli occhi e si mise a scuotere lentamente la testa da destra a sinistra senza una parola. Poi tutto il corpo le oscillò da un piede all'altro al ritmo di un gemito sordo che finì per esplodere in un enorme singhiozzo. «Ora deve dirmi tutto, Armel», ordinò Nicole, che in pratica ormai si aspettava di tutto. E la duplice confessione ebbe inizio. Già da anni Gildes non occupava più lo stesso letto della sorella. Dormiva con il signor Lucas, l'autista del camioncino della fabbrica di gomme del marito della signora Joël, nella camera che la signora Joël gli subaffittava. Ecco perché un gatto non poteva graffiare entrambe nello stesso momento. Quanto al gatto, visto che la signora voleva sapere tutto, non ce n'erano al quinto piano, Non ce n'erano mai stati. Solo che ieri al quinto piano c'era stato il cugino della signora Joël e Armelle si sbottonò il grembiule a quadretti. Spalle, avambracci e la base dei seni erano striati da sottili sfregi nerastri e disseminati di pizzicotti lividi che cominciavano a tendere al giallo zolfo. Lo sapevo quando l'ho visto arrivare ieri. Lo faceva già alle ragazze quando era piccolo e veniva con i genitori in visita al castello dai genitori della signora Joël e non solo alle ragazze, anche alle bestie. Lo fa con le unghie e con quelle sue dita che sembrano così mosce. Piangeva di meno e il tono era quello della cronaca. Ieri sera ha approfittato del fatto che il signore e la signora non mangiavano a casa, che io ero nella cucina di Gildèse, che sono salita presto e mi ha seguito per le scale. Potevano essere le 7. Non è neanche entrato in camera mia. Quella è una cosa che non gli interessa. Le crudeltà a un tipo come lui piacciono davanti alle porte quando c'è gente che può arrivare all'improvviso. Inorridita e insieme sollevata, Nicole giurò su Sant'Anna d'Auray che non avrebbe detto niente alla signora Joël di Gildèse e del signor Lucas. Per il cugino Michel non poteva promettere niente. Si sarebbe visto in seguito, in ogni modo, aveva già ripreso il treno per il Morbihan. Mise un po' d'arnica sulle leggere ferite e baciò le due guance scottanti della sua domestica, la cui sensualità sonnecchiava ancora, giacché né la riprovevole condotta della sorella, né le feste di Neuilly succedutesi a due passi da tanti anni, erano ancora riuscite a svegliarla. Come aveva detto ad Armelle, Nicole rimandò a più tardi il rapporto che si riprometteva comunque di presentare un giorno o l'altro a Joël Gentil sulle sorprendenti pratiche a cui si dedicava il figlio del suo molto onorato cugino, procuratore della Repubblica a Lorient. Potrà sempre servire, si diceva, casomai la mania della discriminazione sociale dovesse indurre per mala sorte la povera Joël a fare uso una volta di troppo del termine bottega. Si sarebbe stati a vedere. Più tardi. Con quello che si vide poco tempo dopo, parve del tutto superfluo a Nicola andare ad accrescere l'afflizione che si abbatté sul secondo piano a sinistra dello stabile di fronte a Rue Charles Lafitte. Le sorelle Papin erano detronizzate. Tutta quanta la stampa non parlava più che dell'assassinio della Landa. Ma mentre le sorelle Papin avevano avuto l'elementare correttezza di firmare il loro misfatto tornando buone buone nel loro lettino per aspettare la polizia, l'assassino della Landa l'aveva presa bellamente in giro e la sua epopea aveva assunto nella stampa gli aspetti di un romanzo d'appendici a puntate. Quello che comparve all'inizio sulla prima pagina dei giornali fu un giovane vedovo inconsolabile al centro di un pugno di volontari armati di fucile che si accingevano a una battuta. Ritroverò colui che ha distrutto la mia felicità, diceva la didascalia sotto la foto che quella mattina rappresentò per Nicole una doppia partecipazione di matrimonio e di vedovanza del cugino Michelet. Un'altra foto più grande, scattata il giorno delle nozze del vedovo, illustrava la felicità distrutta dal gesto infame di un abietto vagabondo. Armelle fu incaricata da Nicole di identificare per lei gli uomini in frac e finanziera, le donne in abito lungo e le piccole damigelle d'onore vestite di pizzo che il nadar locale, il fotografo, aveva disposto, a seconda del merito, intorno a un grande velo di tulle che formava una specie di candido laghetto ai piedi della giovane sposa. Armelle additava i notabili e citava i nomi del Gotha del Morbihan. Nicole scoprì finalmente i visi dei genitori di Joël e riconobbe appena quello del fratello, l'ex Spahi. Libero dagli obblighi militari e perciò stesso privo del képi azzurro con la falce di luna d'oro, nonché del ricamatissimo barracano, aveva proprio un'aria da commesso di negozio di mode. Il padre del giovane sposo, in compenso, portava l'abito da cerimonia con la disinvoltura di un uomo abituato alla toga e all'ermellino. Nicole lasciò in portineria un bigliettino per il Le Gentil. Partecipano al dolore che colpisce la vostra famiglia. L'indomani, poiché la battuta non aveva dato risultati, il vagabondo continuava a essere uccel di bosco e sulla prima pagina dei giornali si poteva vedere il vedovo insieme al padre in testa a un lungo corteo funebre. Si seppelliva la felicità distrutta in un cimitero di granito. 2 giorni dopo, l'omicida della landa di Loch Anguidel veniva identificato. Si veniva così a sapere che era stato proprio il vedovo a uccidere con 6 colpi di carabina la giovane moglie 19enne, sposata 6 mesi prima tramite un annuncio matrimoniale da cui risultava fornita di una dote di 250.000 franchi. Si veniva altresì a sapere che i lunghi veli da sposa dissimulavano una paralisi dell'anca, mentre la corona di fiori d'arancio nascondeva la cicatrice di una trapanazione fallita, postumi di una brutta caduta che l'aveva resa definitivamente inconiugabile. E soprattutto si veniva a sapere che un mese prima della sua scomparsa era stata contratta un'assicurazione contro gli incidenti sulla testa incrinata della giovane handicappata, con una clausola che contemplava l'omicidio. Era stata una topica del procuratore, probabilmente imputabile all'amore dell'ordine e al senso della disciplina inerente alla sua funzione, il quale aveva tirato in ballo la scottante questione proprio nel momento in cui si andava organizzando la battuta per snidare l'infame vagabondo. Un telegramma, firmato dal procuratore, proveniente dalla magistratura di Lorient per sollecitare il premio dovuto al figlio, era arrivato alla sede della compagnia d'assicurazioni, mentre la giovane morta era ancora tiepida. La compagnia Pignola, come tutte le compagnie d'assicurazioni, aveva domandato un certo tempo e intanto aveva comunicato il telegramma a un altro ufficio del tribunale di Lorient. L'ultima foto che comparve sulla vicenda dell'assassino della Landa lo mostrava mentre sorrideva all'obiettivo della baby Kodak della sua vittima. Era di fronte all'oceano e portava gli stivali, il berretto, una frusta in mano, in mezzo alle sue volpi argentate e ai suoi cani lupo. In primo piano si distingueva un filo spinato che doveva impedire alle belve di fuggire e in fondo, bene allineate, le piccole baracche di legno che fungevano da nicchie. Ritenendo inutile lasciare in giro quel documento sotto gli occhi di Janek, Nicole lo buttò nella pattumiera. Armella lo tirò fuori e ritagliò la foto. Al secondo piano se ne stavano rintanati. Secondo Armella, che lo sapeva da Gildes, la signora Joël giaceva affranta in fondo al letto. E sempre secondo Armella, che anche questo lo sapeva da Gildes, la quale lo sapeva dal signor Lucas, in fabbrica il marito della signora Joël non era neanche da prendersi con le molle. Dato che la povera Joël non usciva più, gli approvvigionamenti ne risentivano e Nicole decise di sferrare un colpo decisivo. L'immagine era calzante, giacché se ne andò a bussare alla porticina della cucina, invece di suonare a quella grande che Gildes aveva ordine di non aprire a nessuno. Quando Nicole andò a trovarla in camera, la cugina dell'assassino era irriconoscibile. Nicole si sedette a sua volta ai piedi del letto ed elargì le confortanti banalità che si ammanniscono a coloro che soffrono. Con voce dolce infilzava le frasi «Coraggio, si faccia forza, è un brutto momento da passare, non siamo responsabili dei parenti, in tutte le famiglie c'è sempre uno zio, un cugino, eccetera, eccetera». Era arrivata a questo punto quando, con una fulminea associazione di idee, si rese conto che di tutte le banalità che aveva snocciolato, la più valida e la sola costruttiva era proprio quella che aveva appena proferito. Allora, con brutale bonarietà, fece volar via le lenzuola sgualcite e la coperta. Ora lei si scuote, si lava, si veste, fila al mercato e mi fa un grosso favore. Vada un po' a vedere che cosa propone il suo amico Charlot e mi compri tutta la sua merce, scarpe, borse, biancheria, cinture, prenda tutto. A maschere ci manca il materiale. Su, su, in piedi, al lavoro per la mia bottega. E fu così che la povera Joël, divenuta acquirente volontaria per conto di maschere e bergamaschi, fu anche per un po' la migliore cliente del cugino povero della povera Anna. Poi Charlot smise di vederla davanti alla sua grande esposizione, dove, bisogna pur dirlo, le buone occasioni si facevano sempre più rare. Poi, un giorno, si smise di vedere Charlot al mercato di Neuilly. A occupare il suo posto venne la bancarella di un ortolano di Argenteuil. Nicole fervente adepta del sistema direttamente dal produttore al consumatore, aveva soppresso gli intermediari. Ormai si riforniva dalle grandi ditte, molto sensibili all'interesse, ai loro vecchi fondi, firmati, dimostrato da un'altra grande ditta in piena espansione. Queste offrivano a maschere e bergamaschi, costumi d'epoca, creazioni e noleggi, condizioni imbattibili.